se qualcuno perché giudica immonde le carni che Dio ha donate all'uomo per nutrirsi, e non perché desidera mortificarsi, si astiene dal mangiare queste carni, su di lui è l'anatema.